con Alessandra Speciale, direttrice della 29ª edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 23 al 31 marzo 2019. Alessandra, ben trovata. Ciao, ciao a tutti. Descriviamolo per chi ignora questo festival. Innanzitutto che è un festival che quest'anno compie 29 anni, quindi è diventato un'istituzione a Milano, ma anche non solo, perché è un festival dedicato ai tre continenti, Africa, Asia e America Latina, e rimane ancora unico in Italia, diciamo, nel suo genere. Abbiamo cominciato con l'Africa, poi nel 2004 abbiamo aperto agli altri continenti e continuiamo su questa linea, anche perché, come sappiamo, la nostra distribuzione in questi 30 anni quasi di festival un po' è migliorata in Italia, aprendosi con qualche eccezione a questi continenti, ma rimane ancora un cinema sempre più interessante e ancora molto poco visto. E quindi il nostro compito, la nostra mission è proprio quella di andare a cercare di dare una visione il più panoramica possibile. Infatti quest'anno abbiamo un claim che si New World Round Vision, proprio perché richiamiamo ad avere sul cinema, ma in generale sulle cose, sul mondo, una visione che entri a, cioè che cominci a guardare le cose un po' più nella loro complessità. Siamo un po', come dire, preoccupati di una brutale semplificazione che stiamo vedendo ormai della realtà, e pensiamo che in qualche modo un festival non può certo cambiare le cose, ma può contribuire con il suo percorso di visioni e di incontri a quello che facciamo poi fondamentalmente appello, che è comunque un umanesimo sociale che ci salvi un po' in questo momento. Alessandra, quante opere presentate? Presentiamo 60 opere in 9 giorni di festival, che, come forse ti ricorderai, siamo un festival essenzialmente di cinema, ma che mette poi in gioco tutta una serie anche di altri eventi. Ad esempio abbiamo delle mostre, abbiamo un festival center a Porta Venezia, a Milano, nel centro, diciamo, storico della città, che diventa anche poi un luogo di incontro. Comunque i film sono 60, sono tre i concorsi: il concorso maggiore, che è quello dei lungometraggi finestre sul mondo, quindi quello delle opere recenti di Africa, Asia e America Latina, tutti i film in prima nazionale. Poi abbiamo un concorso che è un concorso storico che facciamo fin dall'inizio, che è il concorso sui cortometraggi africani, perché è là che noi vogliamo andare a cercare i nuovi talenti dall'Africa, e qui altri 10 cortometraggi. E poi invece il concorso che ormai facciamo da circa 12 anni, invece questo è dedicato ai registi italiani che o vanno a girare nei tre continenti, o si confrontano con, diciamo, le tematiche dell'Italia interculturale. E questa sezione, che 12 anni fa ricevevamo a malapena 10 o 15 film su questi temi, quest'anno ne abbiamo ricevuti circa 100. Quindi questo ci deve far capire quanto le tematiche dell'Italia interculturale, dell'immigrazione, eccetera, stanno interrogando e ispirando i nostri registi anche. Non ne mostriamo 100, nel concorso ce ne sono 22, però, però ne abbiamo ricevuti 100 su 700 film ricevuti nel totale. Poi ne abbiamo selezionati, come ti dicevo, una sessantina. Una doppia curiosità, oltre ai concorsi ci sono sezioni in cui è suddiviso il festival e poi se ci sono ospiti. Certo, una particolarità del nostro festival sin dall'inizio è sempre stata quella di portare anche i registi, perché il festival diventi anche un evento di incontro e quindi non semplicemente di esposizione del film. Quindi avremo su 60 film, più della metà saranno comunque accompagnati dal regista. Abbiamo delle sezioni parallele ai concorsi, sì, Quest'anno abbiamo una sezione in collaborazione con l'Istituto Confucio dell'Università degli Studi di Milano sulla Cina e abbiamo voluto dare carta bianca a Marco Müller, che penso che molti di voi avranno sentito parlare, ex direttore di Venezia e di Roma, anche il Festival di Roma, che da 2 anni ha creato, lui è un grande sinologo, conoscitore del cinema cinese, e da 2 anni ha creato un nuovo grande festival in Cina che si chiama Pingyao Crouching Tiger Hidden Dragon International Film Festival, cioè mutuato il nome dal famoso film di Ang Lee, un festival che ha creato e fondato insieme con Zha Jianke. Gli abbiamo dato carta bianca per portare 4 film che in qualche modo illustrassero quello che è un po' l'anima del suo festival, un'anima che è composta da film d'autore, da film di genere, ma anche da nuovissimi talenti, perché ha creato anche un laboratorio dove aiuta e sostiene nuovi film di giovani cinesi anche in modo indipendente. E quindi avremo 4 titoli selezionati da Marco per questa sezione, poi avremo un piccolo focus sul Perù, che è una delle comunità, quella peruviana, più presenti a Milano, quindi abbiamo voluto fare anche insieme con il Comune di Milano un focus che desse un'idea con un film famosissimo, che è stato uno dei film forse più importanti del Perù, che ha vinto l'Orso d'Oro, quindi una visione retrospettiva con questo film La Teta Giustada, che è stato anche distribuito in Italia col Canto di Paloma, perché aveva vinto l'Orso d'Oro a Berlino nel 2009. Quindi cominciare da un classico, per poi invece arrivare dei film recentissimi di giovani che in questi 2 anni si sono fatti notare nei festival internazionali, quindi avremo Retablo di Alvaro Delgado Aparicio, che l'anno scorso aveva vinto anche dei premi sempre a Berlino, un film interamente parlato in lingua quechua, e una commedia, perché chiaramente anche il genere della commedia ci interessa soprattutto quando poi vogliamo avvicinare anche le comunità, una commedia nuovissima è La Guerra, con una serie di famosi importanti attori peruviani. E quindi c'è il focus Cina, focus Perù, faremo un piccolo omaggio a Gibril Diop Bambeki che ci ha lasciato ormai da 20 anni, ma che è stato un grandissimo amico del festival, nonché uno dei più grandi, se non del più grande regista dell'Africa, diciamo, subsahariana. Un omaggio che nasce da 2 novità. Innanzitutto 2 film suoi capolavori appena recentemente restaurati, Parlons Grand-mère e Yen. E poi anche il fatto che 2 collaboratrici del festival ed io compresa insieme, l'anno scorso, che era il ventennale dalla sua morte, abbiamo deciso di dedicargli un libro che è appena uscito, edito dall'Harmattan, e quindi diventa anche l'occasione al festival di presentare i suoi capolavori e di ricordarlo attraverso quest'opera che si chiama Gibril Diop Bambeki o Il viaggio della Iena. Cosa fantastica che ti devo dire, che non ci aspettavamo, è che Martin Scorsese ci ha scritto la prefazione, perché abbiamo scoperto che Martin Scorsese è stato un grandissimo ammiratore di Gibril e quindi ci ha tenuto in modo particolare a scriverci l'introduzione al libro. Orari e luoghi? Noi cominciamo il 23 apertura Festival Center con una magica mostra, dico magica perché si chiama Magic Cube, di una artista italo-senegalese esordiente in Italia, cosa stranissima, cioè ha esposto nel mondo ma in Italia, pur essendo mezza italiana, non aveva ancora esposto. E poi il 24 sera invece si apre il festival, diciamo la programmazione cinematografica del festival all'Auditorium San Fedele, che è la nostra sala storica, e apriamo per la prima volta con un film italiano, Fiore Gemello di Laura Lucchetti. E lunedì 25, sempre Auditorium San Fedele, la giornata dedicata alla nostra tavola rotonda, che quest'anno sarà dedicata all'agricoltura del futuro in Africa. E poi con martedì Cinema Arcobaleno, Auditorium San Fedele, Spazio Oberdan, Wanted Clan, 4 sale in attività, alcune a partire dal pomeriggio, altre solo alla sera, per da martedì fino a domenica di programmazione. Chiudiamo sabato sera con la premiazione, perché è un festival competitivo, per cui abbiamo una premiazione. Continuiamo la domenica 31 ancora con la programmazione, chiudiamo con un capolavoro assoluto che è Burning di Lee Chang-dong, gentilmente concesso dal Farist e dalla Tucker, perché sono molto felice che l'hanno comprato e che poi tutti potranno anche vederlo in sala in Italia. Questa è una cosa che noi ci auguriamo sempre, sì, avere delle primizie, ma che poi possano avere anche una vita e continuare nelle nostre sale. In chiusura ci lasci i riferimenti internet per la programmazione? festivalcinemaafricano.org. Benissimo, ricordiamo la 29esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dal 23 al 31 marzo 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Alessandra Speciale. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille. Ciao Alessandra. Ciao, grazie, ciao.